gran mia, mentre scompare la via. E ricordo come brucia, come una roccia la vica, e il silenzio sembra schiuma tra noi. Se vuoi restare con lui, non puoi restare mia, mentre rimane la scia. E respiro come fuma, e scavo unghie d'anima, e le mangio, non è luna, ma sento già il profumo tuo che è in me, come quei fiori che portai, come il ricordo che tu avrai di me. Ed io di te perduti, ti penso già e sei ancora lì, e ogni minuto che passa è una trappola, chi mai la preda, ti penso. Quello che resta tra noi.